che ascolterete fra pochi secondi è l'editoriale di Riccardo Petrella dopo l'assemblea sul protocollo mondiale per l'acqua che si è appena conclusa al Parlamento europeo. È Pandora che mantiene una delle sue promesse, quella di raccontare quello che sugli altri media non troverete. Qui a Bruxelles si è discusso di una delle cose più importanti per il nostro futuro, l'acqua e la pace, anzi due cose strettamente connesse. A questo punto la parola a Riccardo Petrella. Tutti quanti siamo d'accordo che c'è una crisi dell'acqua mondiale, nel senso che oramai non è più una questione per i paesi poveri oppure per i paesi aridi o semiaridi. Il malato fra i più gravi d'acqua del mondo è gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non hanno praticamente più d'acqua, se ne parla poco perché si preferisce parlare dell'Africa o della Cina o dell'India e non invece del paese che proprio a causa del suo modello di sviluppo, che è considerato l'ideale, ha provocato un disastro ecologico enorme. Oggi negli Stati Uniti il problema dell'acqua per le città sta diventando un problema gravissimo. È mondiale anche perché è il risultato della causa dell'azione umana, cioè dire non c'è fatalità in questa crisi, si può intervenire, gli esseri umani, le società umane possono cambiare. Ed ecco allora tutto il problema è sapere come e con chi e a quali condizioni. Il come noi in questi 2 giorni l'abbiamo affermato con chiarezza, è attraverso i cittadini. Quello che manca oggi nelle politiche dell'acqua, nelle politiche dello sviluppo durevole, è la partecipazione reale e non retorica dei cittadini, a livello dei villaggi, a livello delle comunità. Si pensa che solo le grandi decisioni in materia di infrastrutture possano essere prese dalle grandi organizzazioni, dalle grandi imprese. No, non è vero. Le esperienze che sono state portate e confrontate in questi giorni qui mostra, per esempio, che per quanto riguarda la gestione dei bacini, anche dei micro bacini, tutto va bene quando le partecipazioni, la gente partecipa alla definizione dei problemi, alla definizione degli obiettivi, all'identificazione dei mezzi. E quando queste identificazioni dei mezzi sono fatte ai cittadini, questi mezzi sono efficaci, efficienti e permettono di far crescere una comunità rispetto al governo dell'acqua che è così fondamentale per la vita. E poi abbiamo insistito molto sul fatto che c'è necessità di innovare politicamente sulle istituzioni, sulle ingegnerie istituzionali e finanziarie che devono permettere alle comunità umane di risolvere il problema della crisi dell'acqua. E in particolare quindi di superare i concetti di sovranità nazionale e di sicurezza economica nazionale e passare invece ai concetti di sovranità condivisa a livello dei grandi bacini e di sicurezza comune e di sicurezza umana e non invece sicurezza economica e non invece sicurezza dell'approvvigionamento dell'acqua per produrre i beni e i servizi che sono esportabili e quindi che hanno il più alto rendimento. Ecco, direi un luogo simbolico è quello del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo è un po' un tentativo di grande democrazia sovranazionale, il primo con tanti limiti. L'acqua è lo strumento che può, attraverso queste procedure, questi approcci che sono il Parlamento europeo, la democrazia sovranazionale, può diventare il luogo della pace. Il luogo della pace si deve costruire una nuova architettura politica mondiale basata sulle sovranità condivise a livello dei grandi bacini per governare insieme il problema della vita, perché la crisi dell'acqua in fondo è gravissima, perché per la prima volta il problema dell'acqua manifestamente è diventato il problema della vita. Si sta distruggendo la vita, distruggendo l'acqua, si sta lottando e facendo guerre sulla vita a partire dall'acqua, si sta distruggendo il funzionamento degli ecosistemi e quindi si sta distruggendo la madre terra. Ecco, ed è qui allora tutti gli obiettivi che stiamo identificando attraverso un memorandum per un protocollo mondiale dell'acqua, non un protocollo fra 10 anni, non un protocollo puramente burocratico, amministrativo, ma un protocollo politico che esprima un nuovo paradigma politico dell'acqua che superi il paradigma fallimentare dell'acqua che è stato quello imposto negli ultimi 30 anni, che è stato un paradigma economico basato unicamente finanziaria di una risorsa scarsa.